primavera che porti i colori dei giorni di maggio. Chiudi i tuoi petali al sole e lascia che il soffio leggero del vento li possa cullare. Stella nel cielo d'estate che illumini il buio e mi insegni il cammino, stammi vicino e accompagna i miei passi attraverso la notte finché verrà mattino. Gira la giostra delle stagioni ed io suonatore rincorro i tuoi occhi come i bambini inseguono il volo degli aquiloni. Se vorrai disegneremo su questo presente la curva del nostro destino, inventando ogni nuovo domani anche quando vedremo le foglie ormai stanche, vestite d'autunno, cadere dai rami. Bella come la ginestra che cresce tra i rovi e le spine e dona il suo dolce profumo nel bosco fin quando in inverno ritorna a dormire. Stringerai forte le mie mani per ogni respiro che il tempo ci concederà.